finesse down Western Road, ayy, yes. Might go down to G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that Northside E. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dawg. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, ayy, no, ayy. Someone watching this shit close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Road, ayy, roll, ayy. Might go down as G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, ayy, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah, yeah. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Yeah. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. 01 Distribution presenta. Ho visto un re. Si tratta di passare un anno ai servizi sociali. La condanna è diventata esecutiva. Dal regista di Mio fratello è figlio unico e La nostra vita. Ma queste sono cose che in Italia non contano, fanno curriculum. Marco Giallini, Elio Germano, Io sono Tempesta, il nuovo film di Daniele Lucchetti, dal 12 aprile al cinema. Il ministro della giustizia è stato assassinato pochi minuti fa. La storia del più grande narcotrafficante di tutti i tempi. Solo 1.000 milioni di pesos per la mia testa. Con i premi Oscar, Javier Bardem e Penelope Cruz. Pronto? C'è qualcuno che ascolta? Vi ucciderò tutti, mi avete sentito? Escobar, il fascino del male. Dal 19 aprile al cinema. Rupert Everett, il premio Oscar Colin Firth e Emily Watson. La sofferenza è nulla quando c'è l'amore. L'amore è tutto. Lui ha ferito anche voi, non è vero? Ti ho fatto una domanda, Oscar. Il tuo fuoco brucia ancora? The Happy Prince, l'ultimo ritratto di Oscar Wilde, dal 12 aprile al cinema. Dopo il successo di Jumanji, Dwayne Johnson torna con un'avventura ancora più grande. Qualcuno vuole trasformare gli animali in mostri. Sai cos'è l'editing genetico? I cambiamenti saranno assolutamente imprevedibili. Ad aprile, l'unica cosa che ci manca è un coccodrillo gigante. Dimenticate le mezze misure. Oh, non sapeva del lupo di 9 metri. Rampage, furia animale, dal 12 aprile al cinema. Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio. Per il tuo fuoristrada, scegli il meglio. Top Service Bagheria. Tecnologia, professionalità e sicurezza al tuo servizio. Top Service Bagheria. Officina, manutenzione e preparazione di SUV e fuoristrada Jeep Specialist. Punto vendita di ricambi, accessori e kit speciali. Centro autorizzato Traction 4x4, HM, 4WD Italia, topgear.it. Top Service Bagheria, strada statale 113, chilometro 248 e 600. Telefono 091 933 403. Sul web topservicenet.net e anche su Facebook. Top Service Bagheria, il meglio per il tuo fuoristrada. Le aziende non sono il prodotto che vendono, sono la cultura che creano. Noi possiamo aiutarti a comunicare i tuoi valori, a tradurre in realtà i tuoi desideri di business, a definire con creatività la tua identità. Agenzia pubblicitaria Affronti, siti internet, campagne pubblicitarie, video promozionali, fotografia commerciale, shooting fotografici. Affidaci il tuo prodotto. Noi ti restituiremo una grande opportunità di successo. Agenzia pubblicitaria Affronti. www.francescoaffronti.it. Arexons. Ce l'ho. Look. Ce l'ho. Brembo. Ce l'ho. Bosch. Ce l'ho. Magneti. È inutile chiedere alla CR Service se ha un autoricambio pronto e disponibile. Tanto Giovanni ti risponderà: ce l'ho. CR Service. Tanti prodotti, un solo fornitore. Non andare a zonzo, vieni direttamente da noi. A Palermo, in via Villa di Napoli 34. Ma che ve lo dico a fare? Lo sanno tutti. www.crserviceautoricambi.it. Tutto il sapore del buon cibo e della buona pizza. Porto Cucina & Cocktail, solo cibo di prima qualità. Venite a gustare i nostri piatti di pesce, carne e pizza a lievitazione naturale. Un personale professionale sarà a vostra disposizione e della buona musica accompagnerà le vostre serate. Porto Cucina & Cocktail è convenzionato con Diamond's Card, Carta Idea, Carta Duo e Mangiare e Bere Sano. Porto Cucina & Cocktail, a Palermo, in via Patuano 26A, pressi Piazza 13 Vittime. Ti aspettiamo. Buonasera, bentrovati su Radio One ed eccoci nuovamente. È passata già una settimana perché nel frattempo lo scorso lunedì era il lunedì di Pasquetta e noi giustamente abbiamo con molto piacere fatto pausa. No, piacere relativamente, un po' ci è dispiaciuto anche non essere con voi, però era il lunedì di Pasquetta e quindi siamo stati assenti. Siamo tornati quest'oggi con una puntatona veramente da non perdere qui su Radio One. Dico Radio One, mi dico Tele One, dico Video One, perché poi potrete rivedere la puntata di Radio One anche in video, quindi tutto ciò che accade in questo momento in diretta Facebook lo rivedrete in televisione, potrete scoprire quello che accade all'interno degli studi di Radio One. Io sono Filippo Brancato, con me Luca Scimeca regia, Simone Brancato all'altra regia, Stizio Carollo e Ida Parlavecchio alla redazione, Gabriele Dolce più tardi ci verrà a trovare con altre notizie molto curiose legate al mondo del rock, in particolare gli eccessi delle rockstar. Non parleremo soltanto di questa sera è come ogni lunedì, parliamo di musica emergente, di musica anche non emergente, di musica conosciuta, di musica affermata e di grandi artisti. Questa sera in particolare lo faremo con due band che sono venute a trovarci per presentare il loro progetto, per parlare di novità che li riguardano. La prima band è una band palermitana storica, si chiamano Criminal Party e abbiamo il piacere di averli con noi, di parlare di questo progetto. Altra band, insomma veramente una bomba, sono gli Shaka Lab, che verranno qui per parlarci un po' di alcune sorprese che li riguardano, di un tour che è alle porte, veramente strepitoso. Iniziamo questa puntata con un grande classico degli AC/DC, sono le 21:06 e questa canzone si intitola Thunderstruck. Tra pochissimo vi daremo anche tutte le coordinate per interagire con noi di Rock Revolution. Fuck! Thunderstruck è uno dei singoli più noti degli AC/DC, primo singolo estratto dall'album The Razor Age del 1990. Abbiamo parlato in questi giorni tanto della possibile collaborazione fra Axl Rose e gli AC/DC nella preparazione del nuovo album. Bene, tutti quelli che avevano ancora dubbi su questa collaborazione, da qualche anno voce di corridoio è stata confermata. Praticamente il cantante dei Guns N' Roses ha sostituito Brian Johnson e sembra avere tutta l'intenzione di diventare ufficialmente la voce ufficiale degli AC/DC. C'è qualcuno che storce ancora un po' il naso di fronte a questa decisione di Brian Johnson e degli altri componenti della band, ma il tour è stato positivo, la voce è una di quelle più simili a Brian Johnson e comunque ai fondatori degli AC/DC, e quindi inevitabilmente, insomma, si è fatta questa scelta che è sicuramente molto discussa. Anche noi un po' non è che proprio ci vada genio, ma bisogna accettarla così com'è, sono le scelte degli AC/DC. Staremo a vedere cosa sforneranno come prossimo lavoro. Adesso facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo nel 1964 con i Beach Boys. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around, get around, round, round, round, I get around. Get around, round. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you're just free. when you're already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think. It's like rain on your wedding day. It's a free ride and you've already paid. It's the good advice that you just didn't take. And who would have thought it figures? And yeah, life is a funny way. Morissette Ironic era il 1996. Adesso invece parliamo di musica nuova, musica indie italiana, e lo facciamo con gli Using Bridge. Siamo al telefono con qualcuno di loro, scopriremo chi. Pronto? Pronto, ciao. Buonasera, benvenuto su Radio One Rock Revolution. Buonasera. Abbiamo il piacere di parlare con... Sono Manuel. Manuel, che bello. Da dove ci sentiamo? Dove siete voi in questo momento? In quale città d'Italia? Noi siamo di Rimini. Ah, Rimini, fantastico. Senti, in questi giorni qui al sud c'è una temperatura molto estiva, sfioriamo i 22 gradi, lì a Rimini come siete messi? Ma negli scorsi giorni è stata bella, purtroppo abbiamo avuto un cambio di temperatura giusto ieri, con un po' di piogge, eccetera. I temporali di primavera, prima dell'estate, ci stanno tutti. Sì, va quasi. Allora, parliamo un po' di questo progetto Using Bridge. Chi siete e cosa fate? Chi siamo? Siamo quattro ragazzi che amano suonare e che pensano che suonare sia la cosa più importante per potersi esprimere. Cioè, è il nostro medium per poter tirare fuori un pochettino alcune delle cose che del mondo interiore che abbiamo dentro. E lo facciamo per passione, ovviamente, perché poi abbiamo tutti altri lavori, altri impegni e la vita è difficile, però riusciamo con dell'impegno e del sacrificio a fare anche cose come quest'ultimo album, ecco. Parlaci proprio di quest'ultimo album. So che sta avendo un buon riscontro, molto presente sui social e su internet. Sì, sta avendo un buon riscontro, le recensioni che arrivano sono finora molto buone, siamo contenti. Devo essere onesto, di solito i musicisti, cioè chi scrive e chi incide è il primo critico e di solito anche un pochino il più duro tra i critici del proprio lavoro. E onestamente penso che sia uno dei dischi più meglio riusciti che abbiamo fatto, il quarto questo, e sì. ci ha dato molta soddisfazione riuscire a completarlo e farlo in questa maniera, cioè in maniera totalmente indipendente, registrandolo nello studio di registrazione del batterista, che ringraziamo ogni volta per questo, e facendolo quindi in maniera totalmente autonoma, anche sì. Come idee, come influenze, abbiamo fatto tutto in maniera personale. Ecco, cioè avete registrato in presa diretta o...? Esatto. Fantastico. Come siamo suonare sul palco. Fantastico. altrimenti si perdeva un pochettino quel come dire, quel non so che fa prendere tiro e ai pezzi e agli stacchi, i passaggi, eccetera. Senti, c'è un filo conduttore che lega le varie canzoni, i vari brani dell'album? Ma guarda, in realtà il filo conduttore più grosso posso dire che siamo noi come mm-hmm. gruppo, cioè il gruppo Using Bridge, perché questo disco in realtà nasce da tanti anni di vita della band. Sono dentro, racchiude brani addirittura del 2000, c'è un brano, uno in realtà, del 2004 addirittura, Can Remember, scritto a cavallo tra il 2004 e il 2005, sì. E arrangiato in diverse maniere, portato sui live, abbiamo provato a registrarlo in altri dischi, ma non è mai venuto come doveva come ce l'avevo in testa e come ce l'avevamo in testa noi, come doveva venire, ecco. Uh-huh. Questo è un esempio, in realtà. Poi tutti i brani del disco in realtà vengono poi dalla storia della band, dagli anni di vita della band. Alcuni sono più giovani e più recenti, altri invece, come dicevo poco fa, sono un pochino più, tra virgolette, datati, anche se poi comunque sono tutti brani inediti, mai pubblicati, eccetera. Quindi. Allora, questa sera noi ascolteremo un brano che si intitola Floating Pieces. Sì. Parliamo un po' di questa canzone, traduzione letterale, è un pezzo che ondeggia. Ma la traduzione letterale in realtà vuole essere... cioè in realtà il testo vuole essere una sorta di come dire, cantilena, e in effetti adesso che lo sentirete vi renderete conto di quello che sto dicendo, cioè qualcosa che riesca a catturare non solo l'orecchio ma anche la testa di chi ascolta. Sì. Come effettivamente succede nella situazione che viene descritta poi dalla canzone, cioè una situazione di amore fisico e carnale, ecco, quindi una situazione in cui si perde un pochettino l'orizzonte e il proprio equilibrio e si tende un po' a fluttuare, a ritrovarsi galleggianti, tra virgolette, sia nelle emozioni ma anche nel corpo, ecco. Siamo proprio curiosi di andare ad ascoltare questa canzone. Allora, due battute per ricordare di informare i nostri amici che ci seguono in radio e in televisione come conoscere meglio questo progetto Using Bridge, quindi pagina Facebook, sito internet e qualche altra cosa. Sì, scrivendo usingbridge.com si trova il sito che rimanda alla pagina Bandcamp dove c'è tutto il disco e anche i dischi precedenti ascoltabili in streaming. Sì. Sia gratuitamente, ma se è possibile anche acquistarli direttamente dal sito Bandcamp. Sulla pagina Facebook siamo attivi, quindi se qualcuno vuole scriverci e ci vuole chiedere il disco fisico siamo ben volentieri propensi ad inviare a spedirlo, l'abbiamo già fatto e lo facciamo con molto piacere. E poi abbiamo le pagine Instagram, il canale YouTube e il canale Spotify e SoundCloud, quindi basta cercare, quindi Using Bridge verrà fuori comunque esatto. po' di materiale da andare a scoprire. Allora Manuel, noi ti ringraziamo, ti auguriamo un grandissimo in bocca al lupo. Grazie a voi per avermi invitato. Grazie, un abbraccio, a presto, ciao ciao. A voi, ciao, grazie.

Da prima frontman della punk rock band Generation X, raggiunse grande notorietà durante la sua carriera solista, poi divenne quello che conosciamo ancora oggi, il famoso Billy Idol. Questa era una canzone del 1981, si intitola Money Money, che non è soldi soldi, ma è Money Money, scritto proprio M-O-N-Y, ripetuto due volte. Questa è Radio One, questa è Rock Revolution, facciamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo con i Criminal Party. Il mondo del lavoro cerca te. Tu che desideri crescere nel settore dell'estetica e dell'hairstyle. Tu che sogni un futuro nella ristorazione. Tu che vuoi far carriera nel food and beverage. Non farti trovare impreparato. Scegli un'accademia del Centro Studi La Piramide e formati con i veri esperti del settore. Ti regaliamo l'opportunità di vivere in prima persona una giornata di formazione accademica. Scopri come. Vieni a trovarci in via Imperatore Federico 18 a Palermo oppure contattaci allo 091 40 75 09. A Palermo c'è un'oasi del gusto. La Cubana Panificio. Pane con farina di riso nero, arabo, a lievitazione naturale e il nero di Castelvetrano. La Cubana Gastronomia. Per pranzi veloci o da asporto. La Cubana Pizzeria. Pizze lievitate naturalmente. Classiche o integrali. Con farina di camut o di soia. La Cubana Pasticceria. Dolci tipici siciliani. Con spedizioni in tutto il mondo. A Palermo, in via Pitrei 141, in nuova sede, in viale Strasburgo 272. La Cubana, dal 1960, maestri del gusto. Peli superflui? Oggi puoi davvero dire basta con il metodo Waterlight, la fotoepilazione a luce pulsata. Un metodo sicuro, indolore, rapido, economico e definitivo. Ti aspettiamo per farti provare gratuitamente l'efficacia del trattamento al centro Vanity Club. Puoi dire basta una volta per tutte al problema dei peli superflui. Vanity Club, Bagheria, via Lobue 24, telefono 091 90 55 03. And now you got to freak me out. Scream so loud, getting fucking laid. You want me to stay, but I got to make my way. Hey, y'all crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Stretches all down my back to keep me right on. Hey, y'all crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Scratches all down my back to keep me right on. Take it all, the paper is your game. You jump in bed with fame. Another one not paid in full. You're so fine, it won't be a loss. Cash it in the rocks, just to get you face to face. Y'all crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Scratches all down my back to keep me right on. Hey, y'all crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Scratches all down my back to keep me right on. Crazy bitch, crazy bitch. Hey, you're crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Scratches all down my back to keep me right on. Hey, you're crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Scratches all down my back. You're crazy, but I like the way you fuck me. Hey, you're crazy. fancy bitch, but you fuck so good, I'm on top of it. When I dream, I'm viewing you all night. Scratches all down my back, you keep me right on. Hey, you're crazy bitch, but you fuck so good, I'm on top of it. When I dream, I'm viewing you all night. Bud Berry con Crazy Bitch su Radio 1 Rock Revolution. Vi ricordo velocemente quali sono i vari metodi per mettermi in collegamento con noi. Quindi abbiamo la nostra pagina Facebook Radio 1, la pagina di Rock Revolution. Poi abbiamo WhatsApp al 366 36 56 666 per interagire con noi in diretta, inviare i vostri messaggi. E poi vi ricordiamo che la puntata di Rock Revolution andrà anche in televisione su Tele 1 e Video 1 rispettivamente, canale 19 digitale terrestre e canale 196 sempre digitale terrestre, per l'appunto Video One. Adesso siamo pronti per iniziare la nostra prima intervista in studio. Ladies and gentlemen, Rock Revolution ha il piacere di presentare gli ospiti della settimana. Ladies and gentlemen, direttamente da Palermo, una band storica, loro sono i Criminal Party, un applauso! Buonasera, buonasera ragazzi, benvenuti su Radio 1, benvenuti a Rock Revolution, parlo con Fabio, fondatore della band. Sì, nel lontano 1986. 86, ragazzi, fra due anni fa avete fatto quanti anni? Sono già passati più di 30 anni. Più di 30 anche anni. Se in realtà, insomma, la nostra, diciamo, l'attività della band non è mai stata continuativa, se no chissà quanti dischi avremmo dovuto fare fino ad ora. Infatti. Quindi sono stati sempre, diciamo, abbiamo fatto un periodo di. Sono ovviamente succedute diverse formazioni. Quindi abbiamo fatto negli anni 80, abbiamo fatto un bel po' di concerti. Aspetta, non andare avanti con quelle domande che ti devo fare. Parliamo intanto della presentazione della band. Allora, sì. Abbiamo questa sera con noi Fabio Vinciguerra, fondatore, che ha appena parlato, che ha una parlantina incredibile, mi ruberà il posto di lavoro, già lo so. Poi abbiamo Mimmo Garofalo, bassista. Buonasera Mimmo. Ci fai un saluto al microfono? Buonasera. Oh, così sentiamo anche una bella voce radiofonica. Poi abbiamo Edoardo Palladino, batteria. Con la UE. Con la maglietta dell'Inter stasera, ma che è successo? Io resisto anche a questi periodi. Poi abbiamo, salutiamo Francesco Amato, tastierista, questa sera assente, ingiustificato. Lisiak. Lisiak, ciao. Buonasera, voce, una delle due voci. E poi abbiamo Vicky Gem. Buonasera Vicky. Ciao, buonasera a tutti. Due voci, ma si è mai sentita sta cosa? Due voci in una band, come mai? Sì, ci sono state band con due voci. Andando indietro, i Jefferson Airplane avevano più di ragione, una. Hai ragione. C'erano pure i Nancy con più di una voce. Hai ragione. Era un gruppo addirittura anche punk. Hai ragione. Allora, parliamo di una band, Criminal Party, no? Sono, diciamo, amici che sono più o meno poco più grandi di noi, che hanno questa grande passione sin dagli anni 80, gli anni in cui il fermento del punk, del rock era molto forte in tutta Italia, in tutta Europa, forse un po' meno in Sicilia, ma probabilmente voi siete fra quelli che invece l'hanno recepito nel modo giusto e che dopo tanti anni ancora lo sentite forte nel sangue. Beh, devi pensare che quando abbiamo iniziato... diciamo nella seconda metà degli anni 80 c'è stato il revival del garage, quindi che era sostanzialmente l'origine del punk degli anni 60, e c'eravamo noi, c'era qualche altra band come gli AFA ad esempio, eravamo in pochi, però ti dico, anche se era un fenomeno molto underground, io quello che dico sempre, c'era un grande interesse, perché io mi ricordo ancora che facevamo poco, ma ci chiamavamo anche per andare a suonare, cioè nel senso c'era molto interesse per le band alternative, mm-hmm. Cioè si riusciva, c'era molto più interesse rispetto ai decenni poi successivi. Anche gli anni 90 non è stato male, perché negli anni 90 onestamente abbiamo avuto delle belle soddisfazioni. Abbiamo fatto un disco alla fine degli anni 90, abbiamo vinto Sonica nel 97, abbiamo suonato prima i 99 Posse a Palermo, abbiamo aperto il concerto del CSI e ci vogliono far aprire anche il concerto di Carmen Consoli. Quindi fantastico, voglio dire, belle cose, un bel passato. Sì, diciamo che c'era più interesse, diciamo, per la musica rock, per questo genere, e forse per la musica in genere. Allora, siamo curiosi di andare subito ad ascoltare la prima canzone che ci avete regalato questa sera. Sentite da What About You, che mi fa pensare un po' a un'altra canzone punk rock, What About Like You, che era dei Ramones, non so se ve la ricordate. Vediamo cosa c'è di in comune con questa canzone. Questo era What About You dei Criminal Party, questa sera ospiti di Rock Revolution. Facciamo un salto negli anni 80, ma è un sound in realtà attuale, perché parlavamo con gli amici di questa sera che sono brani registrati praticamente nel 2017 con delle sonorità invece che riprendono proprio molto gli anni 80, gli anni in cui molti definiscono la discografia al top della produzione, della qualità a livello mondiale. Allora, questi brani fanno parte dell'ultimo disco che abbiamo fatto, si chiama La Révolution Bourgeoise, che è uscito nel fine 2016, e poi nel 2017 abbiamo fatto una nuova riequalizzazione che è quella che voi state sentendo. In genere ho cercato, diciamo, in serie di produzione proprio a dare quel tipo di sound, cioè proprio mi sono ripreso questi vecchi dischi punk di fine anni 70 e anche i dischi un po' garage anni 60, ho cercato di fare ridare questo sound, perché secondo noi, se i riferimenti sono quelli, diciamo anche il sound deve essere, cioè non ha senso, sì, dare un sound diciamo che non riporta anche quel tipo di suono. Chi ascolta questa musica, a mio avviso, ha poi il piacere di sentire quel tipo di sound, no? Sì, è familiare, sì, anche di quel periodo. Senti, per capire un po', aiutare anche gli amici che ci seguono da casa a conoscere meglio questo progetto musicale, ci piacerebbe conoscere meglio anche i vari componenti della band, e quindi chiedere loro quali sono stati in passato, no, gli artisti che un po' hanno influenzato la vostra poi carriera musicale, quelli che avete ascoltato da giovani, i vinili, i CD che ascoltavate più frequentemente. Nel mio caso Led Zeppelin, Who, Stevie Wonder, Paul McCartney. Quindi ho una cultura, diciamo, abbastanza varia, che arriva fino al punk, ma partendo da rhythm and blues. Da rhythm and blues. Tu invece? Ma io, diciamo, sono altro genere musicale completamente, heavy metal, proprio di quello fermo. Heavy metal, allora siamo di casa. Cosa ascoltavi? Metallica? Cacofoni, andiamo pure al grind, cioè genere, prima iniziare ovviamente i classici, Iron Maiden, Ozzy Osbourne e cose va. Poi passare a musica più pesante. Bene, bene, mi fa piacere. Invece voi, ragazze? Parla al microfono, sennò non vi sentiamo. Avvicinatevi, siamo in radio. Più al microfono, ancora di più. Fuocherello, fuoco. Fuoco. Io ho fatto un percorso, diciamo, partendo dal classico pop, le mie prime canzoni così da autodidatta. Poi il mio amore si è volto verso anche io, non il metal estremo, ma il metal symphonic. Tipo? Facci qualche nome. Nightwish, Within Temptation, Epica, sono stati i miei punti cardini. Quindi c'è una bella varietà all'interno di questa band. Tu invece? Vai. Io ti dirò, la mia prima esperienza è questa con i Criminal Party. Ah, io sono la novellina della Sì, ma band. Cosa ascoltavi prima dei Criminal Party? Cosa ascoltavi? Io musica? Amo la musica dal rock al pop, anche io amo molto per esempio Stevie Wonder, Rock Queen. Ma anche metal, adoro Metallica ad esempio. Ah, che bello. Sì. Appunto ho iniziato con i Criminal Party a cantare. Quindi prima esperienza di una band. Del genere garage punk sto conoscendo cose grazie. Bene, bene, sono entusiasta di queste tante contaminazioni, perché poi è quello che dà la particolarità alla musica, l'influenza di tanti generi musicali. Andiamo ad ascoltare un'altra canzone del Criminal Party, si intitola Join Us New. Come from the market place. If it comes Beatles, Criminal Party, questa è una canzone nuova, in realtà io ho detto new, ma non era il titolo della canzone new, nel senso che è proprio una produzione nuova, fresca fresca. A tal proposito volevo proprio chiedervi quali sono le novità che si riscontrano nei vostri ultimi lavori rispetto a magari ai brani del passato? Allora, diciamo che con questo lavoro, con questa produzione, diciamo l'intento era di andare a riprendere il sound originario di quando io ho fondato la band negli anni 80, perché quando io ho fondato la band negli anni 80 l'interesse era di andare a coniugare il punk, la prima era punk, soprattutto quella americana, col garage e sì, anche delle influenze un poco così, un po' psicadeliche che comunque sono in tutto il disco rispetto a quello che è stato fatto poi successivamente, perché il disco degli anni 90 in realtà suonava molto pop, quindi su questo insomma è un ritorno alle origini, quindi è stato fatto una cosa di questo tipo. Bene, altra domanda, sappiamo che in questo momento vi state muovendo sul crowdfunding, che è la ricerca di finanziamenti per poter produrre un progetto. Di quale progetto stiamo parlando? Diciamo che ci sono già dei progetti pronti, cioè, il Criminal Party, essere onesti, sono già ben 4 dischi già pronti, ovviamente non si possono far uscire già tutti in un colpo. Per cui già del prossimo progetto, il crowdfunding, è il nostro interesse è di riuscire a raccogliere i fondi soprattutto per la promozione. La promozione, la produzione la facciamo sempre noi, ne abbiamo su registrazione l'etichetta discografica, perché interessata abbiamo la Don Beat e Pink House, trovate su Facebook anche la nostra pagina. Sì. Tra l'altro se produrremo anche altri artisti e altre cose, e comunque quindi la promozione è indispensabile. Senti, quindi parli tanto di promozione, ma parliamo di live, no? Quanto secondo te è importante un live, cioè farsi vedere dal vivo, suonare dal vivo, rispetto alla sola promozione magari sui social o sulla stampa, per una band? Quanto è importante secondo voi? Live è importante secondo me, primo perché dà la possibilità alla band di farsi le ossa e quindi comunque farsi conoscere anche al pubblico. Secondo me è importante, come si fa ora tuttora, associare i live ai social, nel senso che tu ampli praticamente il tuo bacino d'utenza. Certo. Secondo me i live non sono più fondamentali come lo erano prima, cioè negli anni 80-90 quando tu riempivi i locali, noi quando abbiamo presentato il primo disco all'Agricantus, insomma abbiamo riempito il locale, la gente non riusciva manco a entrare negli anni 90, ora questo difficilmente avviene, per cui l'importanza è diciamo di fare dei live mirati e riuscire a questi live di dare più diciamo un bacino d'utenza possibile, quindi ampliarli il più possibile grazie ovviamente ai social. Cosa hanno i Criminal Party in più rispetto ad altre band che fanno più o meno il punk o simile in questo momento? Perché ascoltarli, perché conoscerli di più? Ma conoscerli di più, innanzitutto c'è una storia, perché non so quante band hanno avuto la pazienza e la voglia di andare avanti tutti questi anni. Poi io penso che diciamo che comunque abbiamo con questo disco si è raggiunto un giusto equilibrio, ma questo lo dicono anche le recensioni, abbiamo avuto un sacco di recensioni anche su riviste anche importanti come Maximum Rock and Roll, quindi anche a livello internazionale, che secondo me c'è un ottimo equilibrio tra il punk, il garage, la psichedelia e anche queste melodie pop, per cui tu ascolti il brano e ti rimangono in testa i brani praticamente già al primo colpo. E quindi secondo me fino ad ora io lo considero il lavoro assolutamente migliore. Che sia stato fatto, perché è esattamente equilibrato in tutte le sue diciamo componenti, sfumature. Va benissimo, allora ragazzi, Criminal Party, cercate su Facebook per avere maggiori informazioni, ci sono anche dei video che tra l'altro abbiamo anche guardato durante l'intervista in alcuni pezzi. Noi vi ringraziamo, vi auguriamo in bocca al lupo, speriamo quest'estate di potervi vedere dal vivo da qualche parte per poter apprezzare anche del vostro live, oltre che dalle registrazioni di ottima qualità e di spessore che abbiamo ascoltato questa sera, va bene? Vi ringraziamo, grazie di averci ospitato e speriamo di vederci presto anche live, e comunque ribadiamo nuovamente di cercare nei prossimi giorni di andare nelle nostre pagine Facebook sia le Criminal Party della Don Beat e Pink House per avere informazioni su crowdfunding, che abbiamo bisogno dell'appoggio di tutti voi per poter proseguire diciamo questa passione, ecco. Bene, in bocca al lupo allora, grazie, rock and roll, bye bye. I'm Per il benessere e l'efficienza della tua auto, Vincenzo Sparacio. L'azienda Sparacio, con uno staff professionale e competente, vi offre diversi servizi come tessere ACI in promozione per interventi di soccorso gratuiti per un anno, soccorso stradale ACI 24 ore, officina meccanica, carrozzeria, cambio gomme, revisione veicoli e motoveicoli, noleggio autovetture e veicoli commerciali. Sparacio e a Bagheria sulla statale 113, chilometro 247-700. Telefono 091 96 71 17. Per informazioni su tutti i servizi offerti, www.vincenzosparacio.net. Segui l'azienda Sparacio anche su Facebook. Ci sono l'amore della mamma, le coccole della nonna, le feste delle amiche e poi c'è la chicca! La chicca, abbigliamento per bambini da 0 a 16 anni. Con la chicca li ricopri di amore e proteggi il portafogli. Troverai tutto al 50%. Praticamente un outlet tutto l'anno. La chicca, a Misilmeri, in via Roma 107. Cercaci anche su Facebook e tieni d'occhio le offerte sempre nuove. Le aziende non sono il prodotto che vendono, sono la cultura che creano. Noi possiamo aiutarti a comunicare i tuoi valori, a tradurre in realtà i tuoi desideri di business, a definire con creatività la tua identità. Agenzia pubblicitaria Affronti, siti internet, campagne pubblicitarie, video promozionali, fotografia commerciale, shooting fotografici. Affidaci il tuo prodotto. Noi ti restituiremo una grande opportunità di successo. Agenzia pubblicitaria Affronti. www.francescoaffronti.it. Sei un imprenditore? Hai un'attività commerciale? Per la tua pubblicità scegli Radio One. Scegli chi sa darti serietà e professionalità e una pianificazione mirata utile per incrementare i tuoi affari. Per la tua campagna pubblicitaria su Radio One, contattaci per un preventivo gratuito telefonicamente allo 091 96 18 41. Tramite email ad info@radioone.it o visita il nostro sito www.radioone.it. We're jamming, jamming, we're jamming, we're jamming, jamming. I want. hope you like a diamond tune. I want a diamond. Questa canzone proprio mi mette una serenità, una tranquillità, e probabilmente il fatto che è legata all'anno della mia nascita, il 1977, e questo sound, questa ritmica di Bob è così tranquilla, un po' mi ci vedo, non so perché, ma l'abbiamo scelta questa sera perché abbiamo avuto il piacere quest'oggi di ospitare con noi Shakala, raga! Ladies and gentlemen, Rock Revolution ha il piacere di presentare gli ospiti della settimana. Dopo tanto tempo e tante attese, siamo finalmente riusciti ad averli qui con noi in studio. Tra l'altro siamo riusciti a beccarli nel momento preciso, prima che loro partissero, perché fra poco faranno un zigzag per l'Europa. Andranno a Parigi, a Dublino, a Catania. Cioè, ragazzi, impressionante. Non ci fermiamo mai. Mai. A settembre poi ci fermiamo un po'. A settembre poi vi fermate, però ottobre, ottobre. È un'estate intensa e siete partiti proprio già da adesso alla grande con un bel po' di impegni. Benvenuti a Rock Revolution. Grazie, ciao a tutti. Allora, dico benvenuti perché abbiamo pensato tantissimo in questi anni di ospitare Shaka Lab, perché è una realtà siciliana veramente molto molto forte, che porta la propria musica all'estero, non soltanto in Italia, e quindi avevamo piacere di averli con noi per condividere questa esperienza e questo progetto che ormai da quanti anni va avanti? Come Shaka Lab da 8 anni circa. 8 anni? L'amicizia è un'amicizia che inizia... Dura in eterno. È vero. Allora, parliamo di Shaka Lab, iniziamo quindi dalle origini. La vostra ricca personalità ha trovato compimento nella formazione di Shaka Lab con questo progetto così originale. Chi è l'ideatore di tutto? Da chi è nata? Da quale mente? È stato una creazione naturale che è venuta. Perché effettivamente prima di creare Shaka Lab eravamo amici che facevamo la stessa attività, ognuno aveva il proprio progetto, e ad un certo punto si è pensato di mettere insieme un po' le forze per creare questa sinergia, creare un collettivo più che una band. Cioè una cos'è un collettivo? Spiegamelo anche agli amici che non lo sanno. Un collettivo è un insieme di persone che più che formare una vera e propria band, formano una crew, quindi si creano ci sono delle varie attività da fare, per cui noi facciamo i promoter, facciamo i selectors, facciamo i DJ, abbiamo un locale dove fare attività musicale e siamo una band. Chiaramente ci circondiamo quasi sempre le stesse persone, quindi i videomaker sono sempre quasi gli stessi, i grafici, insomma si crea una vera e propria famiglia allargata che diciamo ricopre tutti i vari settori. Esatto. Allora hai proprio tirato l'aggancio, perché è proprio la canzone con la quale volevamo iniziare ad ascoltarvi. Parliamo di La Family, che non è soltanto il collettivo, ma la famiglia è anche quella che poi ti aspetta a casa quando vai in tour e poi quando devi tornare, quindi un motivo in più per tornare a casa, per sentirti in famiglia. E noi l'ascoltiamo adesso, Shaka Lab, La Family. Tornando a casa, infatti ho una certa fretta. Già non vedo l'ora, parto tra una mezz'oretta. Già mi sento in palla, la la la. C'è la family che aspetta. Sto tornando a casa, infatti ho una certa fretta. Ma facci sapere pure la bicicletta. Già mi sento in palla, la la la. Sole, portami nella mia terra. Gli amici aspettano l'estate, torna. Un mare calmo di un colore intenso, come il pastello di chi l'ha dipinto. Case bianche e le persiane che si affacciano al cielo. Sento l'aria che profuma, non mi sembra vero. E sono qua, sono qua. Generosa terra, sono qua. Che mala mernata, dalle illusioni aspetto l'asciata che mi separa dell'acqua salata e dello sciavuro di terra bagnata. Ora mi tremano le gambe, mi manca lo sciago, mi ferria la testa, mi sento ombrenato. Torna un telazzo che ho manca ammazzato e quello che mi rasto me l'ha scordato. C'è la family che aspetta, sto tornando a casa, infatti ho una certa fretta. Già non vedo l'ora, parto tra una mezz'oretta. Già mi sento in palla, la la la. C'è la family che aspetta, sto tornando a casa, infatti ho una certa fretta. Ma ci sa vera puro culo a bicicletta. Già mi sento in palla, la la la. Adesso è tempo di tornare, è stato troppo il tempo qui lontano da te. E sai che c'è, che non potevo più aspettare, se tutti quei ricordi mi riportano a sé. Ed ora torno dove tutto quanto è cominciato, posto in cui ogni cosa fa parte del mio passato. Ho voglia di trovare tutto quello che ho lasciato e avere l'illusione di non essermene mai andato. Amore, un violura a mezz'ora e parte l'aereo. Sogno fermalo che te una rinesce a fare un serio. Un ciclio che sta io tornando per vero, dopo sei mesi passati tra gelo e sclero. Ora mi aspettano sulle lumare le belle giornate, zero pensare in testa ma solo lunghe passiate. Sare magari pure per e per fino ai mattinate, con tutte le amici che becco quando scino d'estate. Mi fa pensare alla me terra, l'amici aspettano l'estate sa ricampa. Pide ci pisa che hanno usciuto solo un libro, vince una città che prende niente di risulta. Sole che fa pensare alla me terra. Tornando a casa infatti ho una certa fretta, già non vedo l'ora, parto tra una mezz'oretta. Già mi sento in palla, la la la. C'è la family che aspetta, sto tornando a casa infatti ho una certa fretta. Ma facci sapere pure con la bicicletta, già mi sento in palla, la la la. Quando parliamo di Shakalab parliamo in particolare di un reggae un po' anomalo, no? Una sorta di miscela di vari ritmi. Ci volete spiegare un po' questa fusione? Parliamo spesso, sentiamo parlare di hip hop, di reggae, poi sì, vabbè, anche il freestyle, che è una delle caratteristiche nei live che molto piace al pubblico. Ma parliamo proprio di questa fusione, no? Fra hip hop, sì, e reggae. Fondamentalmente è un mix di una serie di generi che appartengono alla più grande categoria della black music. Quindi dentro, diciamo, c'è il rap, c'è un po' di trap, c'è la dancehall, c'è il ragamuffin, c'è un po' di soul, c'è un po' di tutto. Diciamo che parte anche dalle nostre origini, perché io e mio fratello abbiamo cominciato col rap per esempio negli anni, a fine anni 90. Roberto fa un po' più roots da sempre, Davide è un po' più new roots, anche se c'è un passato un po' punk, questo lo dobbiamo dire, eh? Ah sì? No, passato remoto, insomma. Un passato, cioè, remoto. Un passato reggae, ma anche punk, io, insomma, dancehall. Certo, certo. No, ma punk proprio come cultura, capito? Come sottocultura. Bene, bene. Che l'altro giorno avevamo proprio questa discussione. È un altro furgone. Modo di dire che mi drogavo, insomma. No, io non volevo dire questo, l'ha detto lui. Però comunque misceliamo un po' di tutto, penso sia anche una nostra caratteristica principale, se non la caratteristica principale. No, ma è importante anche portare della musica dalle proprie origini, dalla propria certo, storia. Allora, leggiamo un po' di messaggi che sono arrivati su Facebook di un po' di amici che ci stanno seguendo in diretta in questo momento. Allora, Simona Stella dice: Shakalab e la famiglia! Poi abbiamo Gaetano che dice: dite cose giuste, bravi. Grazie, Davide vi manda un like. Reggaeton Family, Picciotti, fuoco. Ciao Domingo. Poi Giuseppe Spatafora. Salutiamo un secondino a che c'è Reggaeton in diretta. Salutiamo anche Ignazio Gullo, a parte Domingo, che è il nostro DJ. Che oltre a Ghisa, che è quello che ci fa da sempre le produzioni e ci accompagna live, ci accompagna anche lui, Ignazio Gullo, mi raccomando, spacca sempre tutte cose che te lo meriti. Poi ancora Giuseppe Spadafora, tanti cuoricini. Alberto Polizzi: ciao Shakalab Family, siete super bravissimi. Cosimo: Shakalab Famiglia. Grande Memento: Cosimo. Ma il posto giusto è sempre il posto giusto. Yeah. Dice lui Ignazio: ciao raga, grandi da Angelo, che Picciotti, cuoricini, insomma, like a go go, jamming. Like e cuoricini. Like e cuoricini proprio a tempesta, ragazzi. È la cosa più bella quando uno si prepara a partire per un tour, penso, quello di avere già a sapere che a casa, nella propria terra, c'è un supporto forte e importante che vi supporta e che vi segue. Allora, parliamo adesso del vostro prossimo tour. Abbiamo un sacco di date: ad aprile, Bologna, Parigi, Pisa, Roma, Acireale, Catania, Dublino, TBA e Londra. E manca qualcosa, forse. Manca una importantissima. Esatto, quella del 28 aprile a Palermo. Saremo a Piazza Magione. Cerchiamo di fare un poco di caciare. Ah, che bello. Perché non torniamo a Palermo da un sacco di tempo? 4 anni. 4 anni. Sì. 4 anni, quindi insomma un'occasione in più per andare ad ascoltare gli Shakalab. Ne parleremo più avanti. Dovete venire pure voi. Non mancheremo assolutamente. Adesso invece andiamo ad ascoltare un'altra canzone dal vostro ultimo disco, si intitola Stop Them, accompagnata dal video che potete guardare nella nostra diretta Facebook. Salento, Sicilia, sotto la bici del mare. Della nostra terra non è che faia con di te, qui è tu sta vogliono seppellire il culo cemento, ne vogliono fare bruciare culo poco lento, ne vogliono fare credere che ne stiamo evolvendo, ma è tutta una questione di interesse e sfruttamento. Vince la Sicilia è pure un naufalento, l'inceneritore, l'impianto di smaltimento, l'ugassificatore che crea timore e sgomento, le morti di tumore ne ti stiamo permettendo. Qui nella terra sotterrano, poi dopo nel mare trivellano. Invece di dare una mano alla gente, i loro prodotti avvelenano. Luci di notte che accecano mentre i fumi su un alto si elevano. In mezzo tra cielo di morte e terra d'amianto, loro ci annegano. I risultati si vedono, è tutto evidente ma negano. E tanto danno che arrecano quanto denaro che dopo prelevano. Risorse le terre ne avevano, ma adesso la terra è il colore che ha. Più simile al fumo che sale su dalla centrale della mia città. Brucia notti della nostra terra non è che faia con di te, qui è tu sta bene. Shaka la bunga bash, will fight in the Sibili bamba, sibili bam, la gente pare cadere nella pre. Politici fanno su Luca Barè, ma qua i fati ancora non ci vem. Bello l'estate, l'usa lento, fuori dei capo su. Però siamo un popolo che vive schiavo, ancora fra stato scu. Parlo ma fanno comunicare, scarico a mare, c'entro il cuore ma sbaglia di più. Perché ci mi mangio una coppa malù e mi faccio un video, faccio un ciubiù. Questa è la fabbrica degli tumori, dove si muore sempre di più. E la xylella sine se l'ha inventata sulla la TV. Them guests are crazy, where them I get the fucking money. Where them I try to waste the earth, sell off the land, forget the money. And if I need the love, the night we sleep, while them I spread the poison. Distortion, corrupt the air and kill the beautiful portion. I've been on, you never give me no answer. Cause every day we see so many people getting killed by the cancer. As a soldier now we not get no sponsor. Burn up the Babylon system as we burn up the ganja. Fire on the land, we have to stop them. A brucia notte della nostra terra non è che fire on the land, we have to stop them. Fasciti di scarica e l'inceneritore. Vinchite le sacchette mentre la gente muore. Sapite che state inquinando lo meridione. Con tutta sta munizia legale per corruzione. Lo Stato va aiuta, sto poco nella scuta. Sa tutta occhio e naso, sti bucio nella scuta. Sta terra non si sta muta, ma prima poi verrà fare uno che passi cuta. Aia, che giorno dopo giorno m'avvelena. L'inganno che hanno fatto si rivela. Fumi dalla ciminiera, guarda gela. Quante morti, sacrificata al culto dei guadagni. Ecco mafie, uomini corrotti, rapilo che dall'ignoranza cosa cani putte. Faia con di te, we have to stop Non riusciamo a stare fermi stasera, siamo tutti quanti un po' molleggianti con la musica di Liscia Club. E allora mi tocca parlare molleggiando in televisione, poi si vedrà. Questo è inevitabile, proprio il sound che ti entra nelle vene di Liscia Club e ti fa muovere. Questa sera con noi per parlare del loro nuovo disco, del loro tour che partirà a breve, ma parliamo anche di collaborazioni, perché tra l'altro la canzone che abbiamo appena ascoltato è una collaborazione con Boomba Dash, che mi pare Boomba Dash, sì, sono i nostri fratelli salentini, insomma. Stanno spaccando tutte cose, hanno fatto oggi è uscito un singolo con Fabri Fibra, Jack La Furia, Jack La Furia. Si chiama Barracuda, sta andando fortissimo già insomma, sì, sì, sì, in classifica tutto, quindi gli facciamo un in bocca al lupo anche a loro per i loro tour, per le cose che stanno uscendo loro. Il nuovo disco uscirà, poi un singolo con Loredana Bertè, sì, un singolo bello estivo, e quindi siamo contenti per loro e anche per noi che siamo amici loro. Allora volevo farvi due domande, forse tre anche, oltre quelle che diciamo erano previste, preparate dalla mia redazione. Allora la prima era, uno, primo maggio a Roma, cioè mi è passato per la testa di partecipare a un evento del genere? Non è che se non ci chiamano, cioè se ci chiamano ci andiamo, ci hanno chiamato. Ma stanno siamo a Catania con Gal One Day, che sì, diciamo sì. Niente, spacca, da, niente da invidiare, invidiare. Sì, sì, sì. Poi altra domanda che volevo farvi è: il Shakalab in Sicilia sono una bomba, all'estero adesso andrete in Francia, andrete in Irlanda, insomma in un sacco di posti. Come è arrivata fino a questo posti la musica del Shakalab? Ovunque ci sono terroni, Shakalab esatto, è presente. Cioè noi andiamo forte nella città dove ci sono ad alto terroni. Tasso esatto, terronica, città terroniche. Infatti Milano, Torino, queste città Bologna, qua, sembra tipo Torino del Vallo quando ci andiamo a cantare. Cioè, insomma, roba anche Londra l'anno scorso. Calatafimi sembra. Calata no, London. Poi la cosa particolare è vero, al nord ci sono tantissimi siciliani che vivono e quindi è bello poi quando c'è una band siciliana andare a supportare, sentirsi un po' a casa con il sound, anche solo il fatto di sapere che una band siciliana e la vai a guardare ti senti un po' a casa ed è bello, io l'ho vissuto sulle mie spalle. Altra domanda che volevo farvi, allora, amanti della musica reggae, venite un po' dalla Sicilia occidentale, c'è un altro interprete importante, famoso in tutto il mondo, che proviene un po' dalle vostre parti, che è Alborosi. Sì. Avete mai pensato? Non si è di... mai visto da quelle parti, in realtà, però ufficialmente sì. Ufficialmente è lì, ufficialmente no? Sì. Poi da tanti anni, vabbè, so che è stato al nord Italia, ha vissuto lì e poi si è trasferito in Giamaica. Sì, sì. Beh, mai passato per la testa a un certo momento di dire, ragazzi, andiamo tutti in Giamaica? No. Però possiamo cogliere questa occasione per dire, Miccio, domani posso andare a Calatafimi o a Mazara o a Trapani, andiamo tutti in Giamaica. No, in realtà io e Marco Lizzo probabilmente ci andremo a gennaio l'anno prossimo. Che sogno fissa, non l'ho capito. Non c'hai i soldi, però. Cioè, tu e Marco Lizzo e io rimango. Andarci in vacanza, cioè poi spostare tutta la nostra attività là, no, anche perché noi siamo comunque fortissimamente legati al territorio nostro. Bravi. Ed è una cosa che, insomma, abbiamo deciso di rimanere e resteremo qui fino alla nostra morte. Fedeli. A breve, tra l'altro. No, alla fuga di cervelli. E di panze soprattutto. E di panze. Va bene, ascoltiamo un'altra canzone degli Shakalab qui su Radio One. Marijuana, si da stare in chiuso in casa, la serata è rovinata, ne esci fuori lì la canna, gli usci da sta camminata, fatti vivere stasera, gente giusta che canta e suona, ora rompi sta catena, se a luce giù la scena. E la mia terra me ne siamo isolati, isolati, siamo bagnati di mare di tutti i lati, ma lo vanno con le dintre alle case mezzo lisciate, di lì metro con le fine zone disabitate, vittiate, gustate dintre sempre in ben estate, muovite vannacate, vi venite che abballate, satate, scusate, vi minchia, non ci pensate, che passa un po' che gruppo, il resto ci mettiamo neanche. Passa un po' di gru, non serve chiudersi in senso, get up and move, get up and move. Pare che non ti fa niente, qui la porta è chiave ma rapidi la mente, dici so che a dire c'è qualcuno che ti sente. Attenti a ripigliare nella pasta lo groove, che rap e move, e tu a palle non ti fermi più. Allora muovete, muovete nord a sud, c'è Calabria, mamma Maria, cosa vuoi di più? Toda gente scende con me, c'è un sacco della problem, qui da peso scaccia schiena, che ho bacchette da tanco velena, gente così le chiese da cosa, io te lo penso come vita un bush, fine palle, fine che da mia gioca, c'ho stress da giornata, su da via Babilonia, la music therapy. Domingo al giovedì, il sabato il venerdì, fatto cura, non sta da sola, attivati, liberati il groove, rende liberi. Basta un po' di groove, non serve chiudersi in senso, get up and move, get up and move. Basta un po' di groove, che viene dalla strada, get up and move, get up and move, get up. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up Havana, mañana Copacabana, poi dalla terra del fuego hasta la isla Guayana, balli la samba baiana nella regione siriana, compare Neshika se currica passa la carovana. Allora parti, devi rilassarti e non preoccuparti di derrivi chiariti, più stamina e vitality, già sì nella mentality, di rida e ricampariti, compare ora da muovere, muoviti! Basta un po' di blu, non serve chiudersi in senso, get up and move. Club questa sera con noi qui su Radio One Rock Revolution, per raccontarci un po' di quello che è successo, di quello che avverrà a breve. Tra l'altro sappiamo che a giugno uscirà il nuovo disco, ragazzi. Esattamente, sì, siamo tutti in attesa, già abbiamo prenotato con loro una data prossimamente per Rock Revolution, nuova stagione, per parlare di questo nuovo disco. Bene. Due dischi all'attivo, collaborazioni importanti con, ad esempio, con il Soul Sound System, con Mamma Marias, che era tra l'altro presente anche nella canzone che abbiamo appena ascoltato. Qual è l'emozione che si prova a condividere il palco con alcuni dei maggiori esponenti della musica italiana, del genere, del settore, e avere poi il piacere anche di andare all'estero, come ci raccontavate, ad esempio a Londra, e trovare una folla di persone che vi accoglie, che vi scalda e che vi aspetta, insomma? Bah, personalmente io penso sia una grandissima figata, come si suol dire, no? Perché magari 10 anni fa, 15 anni fa, noi ascoltavamo già i Soul Sound System, e anche poi, 20 anni fa, anche 20 anni fa, e poi essere sul palco insieme a loro, condividere un pezzo che alla fine è diventato un classicone, tra virgolette, del reggae italiano, è veramente una bellissima cosa. Per quanto mi riguarda, posso dire, questa è veramente una figata. Poi non so il dottore Lorre cosa ne pensa, ma... No, vabbè, è quello che ha detto Bruno, fondamentalmente. Nel copione. Senso, noi... No, vabbè, però lo cambio un attimo. Ma guarda, uno schifo totale, cioè... No, in realtà questo, cioè... Lasciando stare Roberto, che già quando noi eravamo ragazzini era un ragazzone, quando noi eravamo ragazzini ascoltavamo i Soul Sound System. Chiaramente quando cioè adesso il fatto di essere insieme sul palco, insieme sui pezzi, quando loro vengono a Permo ci chiamano, quando noi andiamo a Lecce li chiamiamo, c'è del rispetto professionale comunque reciproco, è una cosa, c'è una specie di obiettivo raggiunto. Sì. È molto soddisfacente. Molto ancora un po' di messaggi da Facebook. Siamo in diretta in questo momento sulla nostra pagina Radio One. Dunque Nico vi saluta, Davide, anche Anna Maria, ciao grandissimi, ciao da Riccardo, siete fantastici, ci vediamo il 14 a Bologna. Alessia, vi aspetto con ansia. Ciao Picciotti, forza ragazzi da come si chiama? Palido. Andate forte ragazzi da Salvatore, grande Nino, Ufolletto e Cutti. Questa cosa un messaggio in codice, trasmissione. Non vedo l'ora che veniate a Pisa, Picciotti, da Daniele Catanzaro. Poi Tiziana, il posto giusto, ma Girgenti quando? Chiedono giustamente anche una data a Girgenti. Ora come ora non c'è, cioè magari uscirà in estate, sicuramente zona. In quella zona lì qualcosa farete. Sì, anche perché comunque l'Agrigentino è uno zoccolo duro. È uno zoccolo, è vero. Poi ancora Alfio qua, con rispetto, semplicemente dice: raga, tanta bella musica. Alfio dice: siete molto meglio dei Boomba Dash. Punti di vista, vabbè, tanti messaggi su Facebook, ancora una volta insomma si sente proprio l'affetto degli amici che vi seguono. Noi andiamo ad ascoltare un'altra canzone, tra l'altro approfitto, Luca, ti chiedo proprio Regepi, è una canzone che loro ci hanno mandato e vorremmo metterla, e non era in programma, se abbiamo le possibilità mi farebbe piacere. Ti mette in difficoltà, così live, la diretta, il bello della diretta, testiamo qui i tecnici. Questo è il bello della diretta, lo facciamo nel frattempo, ascoltiamo questa canzone, abbiamo deciso di mandarla subito. Ok, vai. Bruciamo al Carmo Acquai, Shakalab insieme a Ludovico con Ludo Rompabio, famota sul sound. Carmo la Sicilia, lo Salento si uniscono voi. Bruciamo al da sempre nel gregge del reggae, tanta brava gente ma anche tante mezze seghe, si credono i migliori, forse non hanno le orecchie, ma datevi alla fuga oppure datevi al merengue, mentre non hanno una lira e fanno i money makers, fanno gli scempio manco fossero dei Lakers. Ma chi lo spiega a tutta questa gente che la competizione non gli ha mai portato niente? Fai l'arco e vi è dispaldate, perché sei suonato come una campana e spari minchiate. Tu io con di squadra non lo fai, perché sai che in qualsiasi posto vai ti pigliano a pallonate. Fly down, fly down, ti sento spacchioso ma ti vesti come un clown. Una manco una yard e puoi fare lo touchdown. Ti fado con a casa e ti sento a train sound. Reggae beat, è inutile che spingi coi tuoi gomiti. La vivi manco fosse alle Olimpiadi. Ma siamo fuori gara, non puoi prenderci, non offenderti. Reggae beat, è inutile che spingi coi tuoi gomiti. La vivi manco fosse alle Olimpiadi. Ma siamo fuori gara, non puoi prenderci, e riprenditi. Su tutti i Batman, tutti siamo i killa. Tutti che ti contano di storie di guerriglia. Oppure ti parlano tutti pizze lobe senza i miglia. Ma va appena di giri, sono tutti pronti per inculare Zilla. Mi pare l'ora di finirla. E mentre vanno a cate sgomitati come pirlani. E ci partiamo di la prima yard e conquistiamo la Sicilia. E ora spaldate provate a levare l'illa. Allora, diamo di valore, dimmi c'è dello migliore. Ma prima di ogni cosa la musica sa male. Poi ne mentimo pure a cantare, ne potimo confrontare. Sicuro ognuno di lui può cacciare il nauro stile. E allora fammi sentire ogni cosa che devi dire. Caccia tutto de cuore, qui giù che tieni già l'ugore. A te dammi intere a combattere, con cucina e buona salire. Il modo che tu capaci davvero posso dire. Dammi musica che arriva dell'anima, che mi faccia riflettere, capace mi consiglia. Musica in dall'anima, dammi una vibrazione che un pensiero mi libera. Reggae beat, è inutile che spingi coi tuoi gomiti. La vivi manco fosse alle Olimpiadi. Ma siamo fuori gara, non puoi prenderci, non offenderti. Reggae beat, è inutile che spingi coi tuoi gomiti. La vivi manco fosse alle Olimpiadi. Ma siamo fuori gara, non puoi prenderci, e riprenditi. La vanità che tieni non ti serve, se per la vita tua scelta starte. Giocate sempre sulla semplicità, e ciò che l'apparenza non ti dà. Torna voi, non vede nella scarpa la maglietta, con te caccia una melodia perfetta. La meta non serve con la superficialità. Non te vivere la musica con competitività. Con competitività, con competitività, con competitività. Con competitività, con competitività, con competitività. Ti dico c'è tenuto da parte, su più di tanti giochi. Emozioni che unisce la gente, questa musica in giro del sei. Fanno di gioia, fanno d'unione, fanno di quello che non vuoi. Fanno di quello che mostra, senti, fanno di ciò che tu non sei. Non puoi reggermi in questo reggae beat. Se mi tiro fuori è per non distruggerci. La rima fa più male di una spada, ancora prima che io l'abbia sfoderata. Non sfidiamoci, comprendimi. Tutto quello che divide non fa credere che è possibile costruire, non distruggere. Non competere, si può perdere. Reggae beat, è inutile che spingi coi tuoi gomiti. La vivi manco Reggae beat, fit sound system. Ragazzi, Shakalab questa sera qui a Rock Revolution su Radio One. Un video tra l'altro molto bello, girato, cos'era, via Ruggero VII a Palermo? Anche in via Ruggero VII, sì. In, al velodromo. Al velodromo. Le scene su sound system a Isola delle Femmine. Insomma, un video bello palermitano. Bello, c'è, bello. C'è Cristiano Pasca pure che... Ah sì, Cristiano sì, Pasca sì, delle Iene. Allora, vedo ragazzi, ci avete portato un po' di gadgets, di cadeau, cartoline. Tra l'altro c'è una cartolina che mi sta particolarmente a cuore, la prendo proprio perché c'è un bello ghetto, si intitola We, Africa to Red Art. Lo facciamo vedere anche in cam, a favore di cam. Questa qui è la cartolina di Shakalab Family. A cosa serve questa cartolina? Cosa si può fare? Giovento. Allora, vedi, tra le tante cose, questa è un'iniziativa che noi appoggiamo col cuore davvero, perché questo ragazzo pugliese che si sta impegnando in Africa per portare dell'acqua, fare delle trivellazioni di pozzi d'acqua, non di petrolio, oh, diciamolo, oh, per aiutare le persone. E quindi appoggiamo questo progetto We Africa. Durante i nostri live trovate un salvadenaio. Danaio, scoperto. Danaio, vero. Vuoto. Danaio. Da riempire. Da riempire con cifre simboliche che vanno da 1 a 1 milione di euro. Verrà data questa cartolina, dove ci siamo noi disegnati dalla nostra amica Barbara. Diciamo, le nostre facce sono dei fichi d'India. Mm-hmm. E nulla, dietro ci sono tutte le coordinate per fare una donazione più potente. Esatto, trovate il codice IBAN per poter fare una donazione. È importante donare un po' d'acqua in Africa, esatto, e dare un po' di supporto. Oltre alle cartoline, oltre alle cartoline, Trovate gli adesivi che stiamo lasciando qui un mini market. Fantastico, ragazzi, che bello. Davide prenderà il posto di Giorgio Mastrota. I Beatles facevano Yellow Submarine. Questo cos'è? Un Green Submarine? Esatto, una specie. Aspetta, che spacchetto questo. Dobbiamo Green Lapin. Green Lapin. Praticamente se questo si è un gadget nuovo, dai, questo nuovissimo. Lo regaliamo alla radio in diretta. Wow, ragazzi, che bello! Un poster che verrà vestiti, autografato. Yeah. Autografato, lo facciamo sulla prima, Simone. Lo facciamo vedere anche gli amici a casa. Ecco, lo mettiamo qua. Guarda, che bello! Bello. Abbassiamo un pochino. Shaka Lab Family. Lo trovate anche ai live, questo al banchetto, ma questo qui lo lasciamo qui in redazione. Se che bello, ci vedete qui a Bagaria e lo venite a vedere. Noi lo facciamo autografare. Quando poi un giorno sarete famosissimissimissimissimissimissimi, lo venderemo. Noi ne abbiamo stampati 300, li venderemo tutti. Poi, fra qualche anno, abbiamo poi a We Africa quello che insomma. I proventi, mi sembra giusto. Va bene, allora facciamo una piccolissima pausa. Restate con noi, ancora parleremo di Shaka Lab fra pochissimo. Radio. La Montalto Gaetano, da 20 anni specializzata nel settore termoidraulico, offre a tutta la sua clientela la qualità dei prodotti ed una consulenza affidabile e professionale nell'ambito termico, idraulico e sanitario. Rivenditore autorizzato Ariston, Calpeda, Olympia Splendid, radiatori in alluminio Global e la linea di elettroutensili Makita. Forniture complete per imprese, professionisti e per il fai da te. Termoidraulica Montalto, a Villabate in Viale Europa 59. Telefono 091 614 3563. Il benessere a casa tua. Visita la nostra pagina Facebook. Arexons. Ce l'ho. Look. Ce l'ho. Brembo. Ce l'ho. Bosch. Ce l'ho. Magneti. È inutile chiedere alla CR Service se ha un autoricambio pronto e disponibile. Tanto Giovanni ti risponderà: ce l'ho. CR Service. Tanti prodotti, un solo fornitore. Non andare a zonzo, vieni direttamente da noi. A Palermo, in via Villa di Napoli 34. Ma che ve lo dico a fare? Lo sanno tutti. www.crserviceautoricambi.it. Sono lo chef Gustavo Papillo e presento una tagliata di ricciolo al cacao affiancata da una purea di zucca all'anice stellato. Ma che è sta cosa? Rispondo alla domanda di Bruno. Questo piatto sembra e assaggia come un pezzo di merda. Che delusione. Mi stai deludendo. Vuoi che moro? Moro. Prima era un forte antistress, ma adesso la cucina è solo un business. La mia generazione tutti master chef, ma chi do chi cuoce non si capisce. Prima era un forte antistress, ma adesso la cucina è solo un business. La mia generazione tutti master chef, ma chi do chi mangi non si capisce. Prima la tele vedevi solo soubrette, minelli fuori di veline e ballette, ma polizieschi tutti con le manette, pieni di pistole, mitra di lupare berette. E da Rai 1 a Rete 4 alla 7, adesso è pieno di padelle, di coltelli e forchette. Tutte le porche a diventare porchette, alcuni vanno in farmacia col libro delle ricette. Tutti cuochi, tutti chef, tutti maghi del fornello, tutti sommelier e poi brindano col tavernello. Si sfidano a colpi di mattarello e per arrivare prime si bucano il rotto e tu carrello. Si figli benedetta 24 ore in diretta, fanno filosofia pure un capo una porpetta. Io invece manco un tana mezz'oretta, dici primo secondo caffè dolce e mi fumava sigaretta. Prima era un forte antistress, ma adesso la cucina è solo un business. La mia generazione tutti master chef, ma chi do chi cuoce non si capisce. Prima era un forte antistress, ma adesso la cucina è solo un business. La mia generazione tutti master chef, ma chi do chi mangi non si capisce. Pare di cavore con sale tavole, apparecchiate le buone che lo chef fa i miracoli. Posate le posate, portatevi portate, assettatevi comode, sorbitevi minchiate. Spiegatemi se io cate cucinato mangiate, vi può scangiato pesce spada quei sarde salate. La gente un navo pane, piaccio pane, non schifiate. State attento con l'ultimo mocco, non va affogate. Rita taglia, pela i peperoni, nelle tue bruschette c'hai spalmati i miei coglioni. Mix it, shake it, tutti i grandi cuochi gli fanno una pizza pippa le ricette dei miei nonni. Se ancora guardavo la TV con questi programmi non la guardo più. Oh no, no. Non ci sono né ma e né se, cani e porci giocano a pari bravi chef. Prima era un forte antistress, ma adesso la cucina è solo un business. La mia generazione tutti master chef, ma chi do chi cosci non si capisce. Prima era un forte antistress, ma adesso la cucina è solo un business. La mia generazione tutti master chef, ma chi do chi mangi non si capisce. Master chef, lord of the kitchen, cubby, hubby. Get the fuck up. Master chef, lord of the kitchen, cubby, hubby. Shut the fuck up! Master chef, lord of the kitchen, cubby, hubby. Get the fuck up! Master chef, lord of the kitchen, cubby, hubby. Get the fuck out my house! Shakalab su Radio One. Poi potrete rivedere la puntata su Tele One, Video One. Prossimamente vi faremo sapere sui nostri social esattamente l'orario, il giorno della messa in onda, così potrete rivedere tutto in video qualora siate in questo momento in macchina e vi siete persi qualcosa. Tra l'altro su Facebook invece siamo in diretta dalla nostra pagina Radio One, quindi potete guardarci e interagire con noi. Tanti gli amici che lo stanno facendo in questo momento. Leggiamo ancora qualche messaggio. Rosario, bravi, bel pezzo. Poi Dennis, top. Francesco dice top. Francesco dice grandi, ciao Roberto, un abbraccio a tutti. Vediamo un po', un sacco di mani in alto da Marcello, ok, da Adriano. Ci saranno al One Day le cartoline? Domanda. Sì. Ci saranno. Ovviamente non potevano mancare. Cuori, saluti da Beatrice e Simona da Parma. Il 14 ciao. È vicino, anche Parma, bellissima città, sì. Tra l'altro, che potrà raggiungere gli Shakalab a Bologna, mi pare. Il 14, sì, vero? Sì, quindi vicino. Insomma, è abbastanza vicino. Va bene. Allora, adesso abbiamo parlato di cartoline, abbiamo parlato di questa iniziativa. Scusa, siccome poco fa ci chiedevi ad Agrigento, ecco, c'è appena arrivato un messaggio a Domingo che ci ha detto: o il 27 o il 28 luglio saremo a San Leone. Che bello, la spiaggia di San Leone è meravigliosa, poi da ragazzi. È che c'è bello. Domingo Profita, capito? No, a me stasera dispiace un pochino perché in realtà loro sono forti sul live, fortissimi, e c'è quel momento proprio amato dal pubblico che è il freestyle. No, allora io ho parlato con Davide, ho detto no, forse è meglio lasciare stare in radio il freestyle, che una volta abbiamo fatto è un po' vastato. L'ultima volta abbiamo fatto un freestyle in radio, hanno chiuso la trasmissione per 6 mesi. Quindi da quel momento in poi abbiamo detto in radio no. No, è meglio di no. Che poi può però scappare qualche parolina che magari, però, capito, non dico non solo è che si dicono parole alla propria madre e sono fratelli, capito? No, ma la cosa simpatica, la cosa simpatica, la cosa spiritosa, no? E poi che poi i vostri fan che vi vengono a vedervi ai concerti sanno questa situazione come si evolve, esatto. No? E quindi quando voi chiedete le parole da utilizzare nel freestyle, non so, guarda caso viene fuori, non so, salsiccia per esempio, esatto, zucchine, insomma ortaggi a forma fallica. No, ma non lo facciamo più da un po' di tempo. Infatti abbiamo deciso di scartare direttamente queste parole, perché chiaramente poi il doppio senso è troppo, è troppo evidente, va a finire sempre veramente tipo a pornografia. Se, ma poi litigate dopo il freestyle, cosa succede? No. Ci beviamo 4 cicchette e non ci ricordiamo nemmeno più. Ma nel freestyle non si litiga mai, si litiga solamente sul palco. Sul poi palco, finito poi il freestyle finisce tutto. Finisce tutto. Avrete modo, insomma, di vederli a quanto pare a breve in Sicilia, sia a Palermo che in Agrigento. In Agrigento, yes. Yeah, e quindi gli Shakalab saranno anche in Sicilia quest'estate. Per fortuna avremo modo di ascoltarli. Facciamo ancora una canzone e poi li salutiamo. Che ne dici? Va bene? Vai. La gente si senza futuro. Sono un paese fatto di rose e di spine. Appena ti muovi cade rompono le rene. Un c'è governo, un c'è stato, un testo di confine. Ti mangiano la terra di sotto mentre cammini. Si parla solo di modelle e veline. E i ministri facciano le ballerine. C'ha bunga bunga, feste, coca e pompini. L'Italia funna per colpa di sti cretini. Vista la Repubblica delle banane. Che comandano magnacce e puttane. E invece la gente si sceria con pezzi di pane. Senza futuro, senza domani. Vista la Repubblica delle banane. Che comandano magnacce e puttane. E invece la gente si sceria con pezzi di pane. Senza futuro, senza domani. Tali picciotti sono disoccupati. E gli operai sono cassi integrati. Pure gli impiegati sono tutti mal pagati. Mentre i figli di papà c'hanno gli spalle parati. Si fottono lo posto perché sono raccomandati. Mentre ci sono un sacco di famiglie sciate sciate. Si aiutano le sordi, ste mangiate le lacce. E se ne finisce buona niente siamo consumati. Questa è la Repubblica delle banane. Che comandano magnacce e puttane. E invece la gente si sceria con pezzi di pane. Senza futuro, senza domani. Questa è la Repubblica delle banane. Che comandano magnacce e puttane. E invece la gente si sceria con pezzi di pane. Senza futuro, senza domani. Alle picciotte sono e gli operai sono e gli impiegati sono. Le figli di papà c'hanno le spalle parate. Si fottono lo posto perché sono raccomandate. Mentre ci sono un sacco di famiglie sciate sciate. Si aiutano le sordi, ste mangiate le lacce. E se ne finisce buona niente siamo consumati. I'm away. I'm away. I'm away. Shakalab qui su Radio One. Che bello ragazzi. Ah, voglio continuare tutta la notte, proprio instancabile, instancabile con questo sound. Allora, parliamo di Shakalab del futuro. A giugno ci avete anticipato un nuovo lavoro, un nuovo disco, un nuovo album. Ci date qualche piccola anticipazione, anche gli amici che ci stanno seguendo e sono tutti curiosi. Allora, da che cosa partiamo? Quante canzoni? 13. 13 pezzi. 13 pezzi? Però proprio... non diciamo tanto. No, assolutamente no. Lo possiamo dire che chi è che c'è? No, non sì. Lo possiamo. Sì? No, le produzioni. Diciamo le produzioni sono tutte di Ghisa e di Ciro Prince Vibe. Che hanno già collaborato con noi comunque in passato, pure cioè soprattutto Ghisa, storico produttore che fa parte della scuderia Macro Beats. Insomma, questi sono i produttori. E poi che vuoi sapere? Che vuoi c'è sapere? Qualche featuring? Sì. C'è il featuring del pezzo che è già uscito con Assassin, che è tipo questa superstar giamaicana che ha fatto pezzi con Kendrick Lamar, con Kanye West, con Damian Marley. Insomma, già basterebbe quello, però ce ne sono altri che non si possono dire, anche perché ancora non sono sicuro. C'è una data, no, c'è una data ufficiale di uscita? Davi tu. Cioè, data ufficiale non credo ci sia, comunque di sicuro i primi di giugno. Proprio quindi, male. Quindi che... è possibile che quest'estate in qualche live ci saranno anche i pezzi nuovi? È sicuro. Oh. Sarà il che... tour estivo, sarà proprio il tour del disco di presentazione del disco nuovo. Mentre che... questo, diciamo, è il spring tour, perché cioè primaverile, no? Che noi siamo. Marco Lizzo, l'altro giorno mi ha chiesto: ma spring si occupa di. Non è vero. Vediamo se ci riesco. Quindi... io ho fatto il liceo linguistico, picciono. Vediamo se ci riesco. Quindi, titolo del nuovo album. No, non si può dire. Non si può dire. Vabbè, allora bisogna mettere un bel like sulla pagina Shakalab per essere aggiornati, scoprire le novità. Tra l'altro loro sono anche molto attivi su Instagram, c'è un sacco di foto dei vari live dove si spostano. Sì. Bisogna invitare Bruno BR1 a farsi Instagram, quindi Instagram. Non me lo faccio l'hashtag Instagram, BR1 non me lo fatti faccio. Instagram. E me, Davide, meglio. Io voglio vedere le fotografie di Bruno a casa, top. In bagno che si fa tipo i... Tra l'altro c'è un bellissimo cagnolino in questi momenti. È il tuo forse il cagnolino? Sì, sì. Meraviglioso. Su Instagram. Grazie. Potete seguire anche la sua storia. È un delizioso cagnolino. A me piacciono tantissimo gli animaletti. Va bene ragazzi, io direi che si è fatto tardi. Noi dobbiamo chiudere e vi ringraziamo infinitamente di essere stati con noi. Vi auguriamo anzitutto buon viaggio per i tanti tour che dovete fare a breve. In bocca al lupo per i tour che saranno sicuramente un grande successo. Vi aspettiamo poi a settembre-ottobre per riascoltare e parlare di questo tour e del nuovo disco che vi sta in questo momento aspettando e voi aspettate lui. Va bene? Yes, grazie allora, ragazzi, ciao, grazie. Ciao. Alla prossima. Ciao. Mamma che voce, ragazzi, Freddie Mercury, non la mia, quella di Freddie Mercury, I Want It All, Queen, era il 1989 e ci siamo collegati un pochettino a quelli che erano i grandi classici degli anni 80. Adesso è giunto il momento di parlare degli eccessi delle rockstar, le stranezze delle rockstar, con il nostro amico Gabriele Doce. Buonasera Gabriele. Buonasera a tutti, buonasera per questa bellissima puntata, scoppiettante, con il Shakalab. Sì, veramente bravi, complimenti. Hanno dato un sound diverso al solito rock, insomma, che mettiamo, hanno dato questa virata, questo vita reggae, reggae. Allora Gabbo, parliamo questa sera di eccessi di due, uno in particolare, un artista che io non l'avrei mai detto, cioè proprio... sì parliamo di The King, di Elvis Presley. Recentemente la moglie ha rilasciato un'intervista, la moglie Priscilla, che è sposata con lui dal 67 al 73, era sposata insomma, a quanto pare ha raccontato che della battaglia di Elvis con le droghe, diciamo battaglia fino a un certo punto, perché lui ne era consapevole a quanto pare di questa sua forte dipendenza e forte eccesso nelle droghe, che poi lo consumarono man mano. Insomma, in questa intervista lei appunto ribadisce questo concetto di questo eccesso di droghe, dice che molti chiedevano: ma scusate, voi non facevate nulla, chi stava attorno ad Elvis per frenare questo abuso così fa, sì, provavamo a dirglielo, ma era Elvis, insomma, faceva soltanto quello che reputava lui stesso giusto per lui, o comunque faceva un po' quello che gli voleva. E appunto da questo poi il declino della star. Infatti ci sono delle immagini in cui lui tra l'altro è pure molto su di peso appunto, forse anche, cioè no, forse sicuramente anche per gli eccessi, non solo delle droghe ma anche del cibo. Certo. Poi passiamo questa sera a una curiosità. Mi è accaduto un po' un mito, no? Sì, pure io cioè, non in realtà ne si parla conoscenza. Tanto di Elvis Presley come l'icona, insomma, del rock and roll, del rockabilly degli anni, quegli anni, però questo Dark Side of Elvis era un po' è giusto anche dirlo. È giusto anche dirlo che purtroppo anche lui faceva uso di droghe, purtroppo. Sì. Poi invece passiamo a notizia che definirei più bucolica, diciamo così. Questa volta passiamo da The King ai Queen, con Brian May. La notizia, insomma, riporta una curiosità più che una notizia. Lui è da 30 anni, a quanto pare, che in un posto che ha lui grandissimo nel sud-est dell'Inghilterra, lui a quanto pare accoglie animali che insomma hanno dei problemi o trovatelli, così. Parliamo insomma di Sir a questo punto, sì, perché Sir Brian May da poco è stato nominato da poco, sì, diciamo da poco, no, quant'è, un paio di anni? Sì, qualche anno, un paio di anni, se non ricordo male, ora liberi di smentirmi. Insomma, c'era questa curiosità, come dicono a Striscia, noi siamo qui, se qualcuno ha qualcosa da dire ci trovano qui. Ed era questa una piccola curiosità anche su Brian May e su i Queen, che insomma vediamo coi loro, con la loro stile, con la loro arte, che poi, abbiamo ascoltato insomma, tra l'altro da poco, infatti. Anzi, approfittiamo, grazie per avermi dato questo servizio, perché arriva l'estate, arriva la stagione calda, invitiamo gli amici a non abbandonare gli animali delle autostrade. Radio One è sempre molto sensibile a questo tema, ci teniamo particolarmente. Io penso sempre che la prima cosa è, se non puoi tenerlo è inutile che lo prendi, infatti. Cioè fa male poi a quell'essere, che è un essere vivente, insomma, a essere abbandonato. Noi siamo molto sensibili. Gabbo, noi ci sentiamo prossima settimana per altre curiosità dalle Ciao rockstar. A tutti, grazie mille. Adesso ascoltiamo i Musicom, Time is Running Out su Radio One, e poi siamo in conclusione e vi ricorderemo i vari modi per rivedere Rock Revolution e riascoltare Rock Revolution. Something beautiful, a contradiction. I wanna play the game, I want the friction.